Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 7 minuti. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È una giornata nella quale, a quanto pare, finalmente i mercati sembrano, dico sembrano per poi non passare da menagramo visto che non hanno ancora chiuso, sembrano darci un po' di tregua. Il FTSE MIB guadagna lo 0,76% in questo momento, il FTSE All Share lo 0,48%. Lo spread, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, è comunque a 522 punti e però in calo, nonostante insomma ancora oggi la Germania abbia collocato titoli di Stato con rendimenti negativi, quindi le cose sembrano andare lievemente meglio, lo diciamo, lo ripeto ancora una volta, con la massima cautela. Tutto questo mentre in America il Dow Jones guadagna lo 0,23%, e nel resto d'Europa Francoforte lo 0,21%, Parigi lo 0,17%. Naturalmente però è più o meno su questi temi che concentreremo la puntata della giornata di oggi. Da un lato quelli italiani, le questioni di conti pubblici, anche a fronte dell'andamento proprio dei titoli di Stato e quindi degli interessi che l'Italia è costretta a pagare sul proprio debito. E poi toccheremo anche il tema della spending review, della cosiddetta spending review. A proposito dei conti pubblici c'è la smentita tra l'altro oggi di Palazzo Chigi, almeno secondo fonti, così si legge dalle agenzie, del blocco delle tredicesime per pensionati e dipendenti pubblici, voce che era circolata nei giorni scorsi. Parleremo d'Italia, ma non solo. Ospiteremo in questa giornata qualche opinione un po' diversa dal solito, perché è anche giusto fare così. Sentiremo un economista il quale è convinto che in realtà l'uscita dall'euro il cosiddetto euro break up, ossia la rottura dell'euro, non sia il dramma che si vuole far apparire. E poi parleremo di Germania e andremo un po' più a fondo, se vogliamo, anche sul carattere dei tedeschi che li spinge a tenere il punto in maniera così energica da una parte e dall'altra parte della congiuntura economica tedesca, perché continuiamo a dire che è la locomotiva d'Europa. In realtà c'è chi sostiene, i dati in parte lo confermano, c'è chi sostiene che le cose non vanno così bene e anzi vanno piuttosto male anche per la Germania. Il tema è particolarmente interessante perché ci porta all'altra questione, quella della quale abbiamo parlato nei giorni scorsi, la questione dell'inflazione. Inflazione che è importante perché? Perché se si dovesse verificare un ulteriore calo dell'inflazione anche in Germania, forse la BCE potrebbe avere ancor più mano libera per muoversi dal punto di vista molto semplicemente di stampare moneta o acquistare titoli di Stato e quindi in pratica alleggerire, fungere da vero e proprio scudo antispread, visto che lo scudo antispread ancora non ce l'abbiamo e proprio causa tedesca si dovrà attendere il 12 settembre, giorno nel quale la Corte Costituzionale appunto tedesca si dovrà pronunciare sul famoso scudo antispread e sulle decisioni prese dal Consiglio europeo del 28-29 giugno. Insomma, in attesa che arrivi tutto questo, la BCE potrebbe fungere appunto da vero e proprio scudo antispread. Questa naturalmente è la nostra speranza. Il 349-238-6666, il numero come sempre per i vostri sms, domande, interventi, commenti sulla trasmissione. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve. Ci dite siete d'accordo a non parlare della vicenda fondiaria SAI, naturalmente a danno dei piccoli risparmiatori. E ce lo scrive Luigi da Torino. Guardi Luigi, ne abbiamo parlato giusto ieri, probabilmente c'è il podcast della trasmissione, quindi troverà ampio spazio, così come ne trova ampia diffusione sui giornali. Se vuole, intorno alle 17.45 di ieri, quindi scarica il podcast della trasmissione e può ascoltare. Materie prime, come sempre, è sempre da qua che partiamo, con l'oro in rialzo a 1585,40 dollari in Asia, più 0,3%. Per quanto riguarda il petrolio, fa segnare nuovi cali dopo i dati sull'aumento delle scorte negli Stati Uniti. Stock di greggio aumentati a 2,72 milioni di barili e quelli di benzina hanno segnato un rialzo a 4,13 milioni di barili. Ebbene, il WTI, il greggio proprio quotato a New York, scende dello 0,99%, quello con consegna a settembre, a 87,62 dollari al barile, quindi sotto gli 88 dollari al barile. È ancora sopra i 100 invece il Brent, quello quotato a Londra, sempre consegna a settembre, meno 0,47% a 102,93 dollari al barile. Dati di ieri, però vale la pena riferirli, perché insomma parliamo di un colosso dell'informatica. Apple, che ha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio fiscale con ricavi in crescita del 23%, 35 miliardi di dollari, sotto però le attese degli analisti che scommettevano su ricavi per 37,25 miliardi. Utile netto salito del 21% a 9,32 dollari per azione, anche qua al di sotto delle attese degli analisti. Nel terzo trimestre dell'esercizio fiscale Apple ha venduto 26 milioni di iPhone, il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Insomma, non sarà nemmeno che gli analisti magari si attendono un po' troppo. Comunque, questi dati è sempre dagli Stati Uniti. Dati invece sulla congiuntura: le vendite di case nuove in calo dell'8,4% a giugno, al tasso annualizzato di 350.000 unità. Il risultato è il più basso da gennaio scorso ed è peggiore delle attese del mercato, che puntavano su 372.000 unità. Dice tra l'altro il segretario al tesoro Tim Geithner che l'economia americana sta ancora crescendo, anche se il tasso di crescita è rallentato. È molto interessante quello che dice Geithner invece sulla vicenda dell'IBOR, vicenda della quale abbiamo parlato a lungo nelle settimane scorse. Adesso ci siamo fermati un attimo perché le cose si sono fermate, anche se c'è un'indagine aperta su 12 trader al momento, e a quanto pare insomma si stanno torchiando le banche per capire che cosa è veramente successo. Il LIBOR è il tasso sostanzialmente, per farla molto semplice, al quale le banche si prestano il denaro tra loro, insomma quello che determina il tasso interbancario e che, come abbiamo già raccontato, incide su 350 mila miliardi di transazioni finanziarie all'anno. E le banche, ve l'abbiamo già raccontato, si erano di fatto messe d'accordo, questo è il sospetto, per ora le prove ci sono solamente su Barclays, per tenere artificialmente basso o alto appunto questo tasso. Nella fattispecie, per quanto riguardava Barclays, più basso, per dimostrare al mercato che in realtà otteneva denaro a tassi più bassi, quindi era più solida di quanto non sembrasse. Ebbene, dice il segretario al tesoro Timothy Geithner, che informò le autorità britanniche dei suoi timori sul funzionamento di questo tasso interbancario già nel 2008, anche se l'informativa non fu resa pubblica. Parlano anche i vertici europei su questo. Dice il commissario al mercato interno Michel Barnier: sono comportamenti che devono essere sanzionati nei casi più gravi con la prigione. E ci fa sapere il commissario europeo alla concorrenza Joachim Almunia che ci potrebbero essere stati state manipolazioni anche dell'indice Euribor, ma non possiamo ancora concludere che sia così perché le indagini stanno proseguendo e non sono ancora finite. Si sta occupando tra l'altro Almunia della vicenda come antitrust in collaborazione con le autorità canadesi, giapponesi e americane. Per quanto riguarda appunto l'andamento dei titoli di Stato, vi abbiamo già accennato qualcosa, almeno per quanto riguarda lo spread, spread che è arrivato in mattinata a 541 punti, scusate, addirittura. Il differenziale spagnolo invece con i Bund tedeschi a 636 e poi, come si diceva, ha ritracciato. E si diceva anche dell'asta tedesca, minimo storico dei tassi in asta dei Bund a 30 anni. I Bund a 30 anni, rendimento medio al 2,17%, un livello mai toccato dal 1994. Per quanto riguarda i Bund indicizzati all'inflazione, il tasso invece è stato, che sono dei decennali, il tasso è stato del meno 0,39%. Mentre la Spagna anche oggi ha toccato nuovi record al 7,6%. Ha toccato record, meglio, se son record sono nuovi per forza. Anche i biennali hanno toccato un record al 7%, pericolosamente vicini a quelli dei decennali. La Commissione europea intanto ha dato il via libera al programma di ricapitalizzazione delle banche in applicazione del memorandum d'intesa sottoscritto tra l'Eurogruppo e il governo di Madrid. Nel frattempo Moody's ha rivisto l'outlook, ossia le prospettive di rating del fondo dell'IFSF, uno dei due fondi salva stati, che resta comunque tripla A. Dati ancora sulla congiuntura e ancora difficili, soprattutto per la Gran Bretagna. Il PIL del secondo trimestre ha registrato una contrazione dello 0,7% dopo il meno 0,3% del primo trimestre. Il dato è peggiore della stima di un meno 0,2% avanzata dal mercato. Su base annua si è avuto una contrazione dello 0,8%. E peggiora poi di congiuntura tedesca, parleremo più avanti. Per la terza volta di seguito l'indice IFO, che misura la fiducia delle imprese tedesche nella congiuntura economica, segna per il mese di luglio 103,3 punti contro i 105,2 del mese precedente. Non buoni segnali arrivano dall'Associazione Bancaria Italiana, la quale nel rapporto di previsione AFO Financial Outlook ci dice che i nodi trascurati dell'economia mondiale stanno venendo al pettine, la debole governance europea con segnali contrastanti, scelte rinviate e decisioni non prontamente implementate stanno ponendo in seria discussione il futuro dell'euro. Si prevede per il 2012 un PIL italiano giù del 2% e giù dello 0,2% nel 2013 e solo un più 0,6% nel 2014. Mentre l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori dice che a due settimane dall'inizio dei saldi un primo bilancio stima una contrazione che in media sarà del 7-8% rispetto all'anno passato. Brutto dato, e ci dispiace darvene così tanti brutti, però così è, si fa sempre più critica, dice Euler Hermes Italia del gruppo Allianz, la critica alla situazione contabile delle imprese. Ci vogliono in media 107 giorni di attesa per riuscire a riscuotere un credito e sono in aumento del 32% i mancati pagamenti, un più 4% dal lato del controvalore. Il problema riguarda anche l'export, con una crescita del 10% dei mancati pagamenti. Infine, due dati dal mondo dell'auto. La Citroën, Peugeot Citroën, fa segnare un rosso da 819 milioni nel primo semestre, speculare quasi agli 806 milioni di utile nello stesso periodo del 2011, a fronte di un fatturato in contrazione del 5,1% a 29,6 miliardi. Piano di riassetto, lo sappiamo, di tagli anche di 8.000 dipendenti, si prevede un impatto positivo sui conti da 1,5 miliardi di euro. Mentre allo stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco arriva il riconoscimento internazionale dell'Automotive Lean Production 2012 nella categoria OEM, il premio internazionale qualità. E ora brevemente le notizie su cos'è questa crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Beh, iniziamo da un modo interessante di fare business. Insomma, come sapete, per una città, come sapete, si sta scatenando una battaglia sui matrimoni omosessuali negli Stati Uniti, una battaglia a livello elettorale. Tra l'altro è interessante che alcuni grandi donatori repubblicani, soprattutto manager di hedge fund, stiano decidendo appunto di sostenere una campagna a favore dei matrimoni omosessuali. Ebbene, il sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha detto che nel primo anno di implementazione, diciamo così, della riforma e quindi di legalizzazione dei matrimoni omosessuali, di approvazione dei matrimoni omosessuali, gli incassi per la città sono stati 259 milioni di dollari, comprendendo anche gli alberghi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Tocca pure a loro. Parliamo dei deputati siciliani. La regione Sicilia ha poca liquidità, e questo lo sappiamo. Non trasferisce i fondi per i pagamenti per la prima volta nella storia dell'Assemblea regionale siciliana. I 90 deputati non prenderanno la paga. Ci avete creduto, non la prenderanno con puntualità. In realtà sarà rinviata, a quanto pare, solamente di un mese. E ha inviato una lettera ai dipendenti andati in pensione comunicando, scusate, ritardi nell'erogazione del TFR. Ancora sulla Sicilia, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ex dirigente del Dipartimento Acque e Rifiuti, che al quale era stata di fatto tagliata la pensione. Aveva una pensione di 496.000 euro, 1.400 euro al giorno. Scende però a 227.000 euro, che insomma è tutto sommato una cifra assolutamente rispettabile. Comunque aveva presentato ricorso. E veniamo al primo punto di giornata, se vogliamo in parte collegato, che è quello che riguarda i nostri conti pubblici. Ne parliamo per ovvi motivi, ma anche perché in queste ore stanno girando voci incontrollate, tra l'altro smentite oggi da Palazzo Chigi. Va detto, lo diciamo senza malizia o forse con un po' di malizia, che non, Palazzo Chigi non ha smentito con una nota ufficiale, ma con voci fatte filtrare dalle agenzie, che non ci sarà un blocco, ha detto che non ci sarà un blocco delle tredicesime di pensionati e dipendenti pubblici. Però non vogliamo spargere panico. Dino Pesolo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, eccomi. Allora, Dino, ti chiediamo di aiutarci a capire quale può essere il quadro anche alla luce dell'attuale andamento, che chissà quanto durerà, speriamo in Francoforte, speriamo in Draghi, dei nostri titoli di Stato. Immagino che circoli un bel po' di preoccupazione, gli incontri di Monti con i segretari di partito sembrano averlo dimostrato. Certamente la preoccupazione di tutti, e non a caso lo stesso Presidente del Consiglio la scorsa settimana ha parlato di un percorso di guerra, mi sembra che ci siamo dentro, i dati che tu hai citato poc'anzi lo dimostrano. La crisi è evidente, però al tempo stesso ci sono, secondo me, degli elementi di maggiore tranquillità per quanto ci riguarda e alcuni altri di maggiore criticità. Intanto dobbiamo dire che per ora la situazione, almeno dal punto di vista del governo, alla luce dell'andamento dello spread, è ritenuta gestibile, nel senso che non siamo per fortuna ancora all'appiattimento della curva dei rendimenti che ci fu nel novembre, a metà novembre dello scorso anno, quando il rendimento sul biennale era al 7,5%. Ricordo che quello fece scattare l'allarme, è vero, che poi provocò la caduta del governo Berlusconi e il cambio di governo. Noi non siamo in questa situazione perché diciamo, il rendimento è salito sul biennale italiano ieri al 5,11 rispetto al 4,67 lunedì, ma siamo ancora per fortuna lontani dal 7,5%. Detto questo, che però fa capire una cosa fondamentale: noi non abbiamo problemi di finanziamento a breve, anche perché il gettito dell'autotassazione sta andando discretamente. Quindi credo che in mancanza, certo, se poi ci fosse una situazione ulteriormente critica sui mercati, bisognerebbe correre ai ripari. Ma qui il problema è fondamentalmente, la crisi è a questo punto fondamentalmente europea. Cioè i mercati, lo abbiamo detto, l'avete detto voi tante volte, stanno reagendo con questi livelli di spread al fatto che non credono che lo scudo anti-spread che è stato deciso dal Consiglio europeo di fine giugno possa essere effettivamente operativo, e dunque c'è una riserva molto forte sulla capacità politica dell'Europa di dare una risposta alla crisi. E questo è quello che abbiamo naturalmente anche raccontato tutti i giorni, che voi raccontate quotidianamente sul giornale, lo farete naturalmente anche con ampio spazio come sempre anche nella giornata di domani. Ci sarà il vivere ai tempi della crisi del Sole 24 Ore anche domani, gestire i risparmi senza rischi, ma anche insomma molti approfondimenti da questo lato. E però detto ciò, se sullo stallo europeo non si può far nulla, insomma qualche preoccupazione inizia ad esserci. Insomma, dice per esempio oggi il Centro Studi REF, tra l'altro li sentiremo più avanti, più specificatamente sulla Germania, insomma con una recessione lunga c'è il rischio di ulteriori manovre. Ecco, allora, infatti qui siamo alla seconda parte del ragionamento. Le cose che dicevo prima erano quelle rassicuranti. Per quel che riguarda noi abbiamo certamente molte cose da fare ancora, ma paradossalmente siamo in una condizione di sostanziale paralisi al momento, perché da dicembre con la manovra d'Italia, che vi ricordo sempre, segue le altre due manovre. Nel 2011 sono state fatte manovre per 80 miliardi, insomma, quindi non è uno scherzo. Avendo poi il governo Monti fatto in questi mesi una serie di riforme, di fatto quello, i cosiddetti compiti a casa sono stati fatti. Il problema è che i mercati in questo momento non ritengono di doverlo premiare. Allora, quali sono le armi di riserva che il governo può mettere in campo nel caso in cui la situazione degeneri ancora? E qui siamo alle voci e alle indiscrezioni. Certamente sarebbe folle, e sono prendo atto, contento che Palazzo Chigi l'abbia smentito, seppur indirettamente, è ovvio che un provvedimento di blocco delle tredicesime sarebbe una follia, perché nel momento in cui abbiamo il PIL che andrà giù del 2%, abbiamo i consumi che ristagnano, eliminare anche questa piccola, come dire, fonte di consumo da fine anno sarebbe una stupidaggine pazzesca. Quindi è meglio evitare manovre fiscali, non se ne devono fare più. La cosa che si può fare, ed è quello che il governo sta immaginando di fare, è potenziare gli interventi sulla spesa, anche perché, e questo bisogna dirlo, noi non abbiamo un problema immediato di conti pubblici, perché nel corso dell'anno ci sarà un deficit al 2%, è la metà della media europea. L'anno prossimo addirittura dovremo raggiungere un avanzo, dovremo raggiungere uno 0,5 come posizione strutturale di bilancio, con un avanzo primario, vale a dire la differenza tra entrate e uscite, netto degli interessi, addirittura del 4% del PIL. Quindi il problema fondamentale è gestire l'emergenza, e lo si fa, credo, lo si farà con una nuova, un nuovo decreto sulla spesa, e a questo punto dando un ulteriore segnale, che io però temo se è rivolta ai mercati, sia sostanzialmente ininfluente, stante la situazione diciamo a livello europeo che abbiamo appena descritto. Dino, un'ultima domanda, sempre a proposito di indiscrezioni, perché poi sono queste quelle cose che inizieranno a girare e rischiano come scatenare un po' di panico. Sta circolando voce di questo piano taglia debito che giacerebbe sul tavolo del direttore generale del Tesoro, Vincenzo Lavia, che prevederebbe nella sostanza, sopra una certa soglia di reddito, una sorta di prestito forzoso allo Stato, cioè una conversione in BTP a lunga scadenza, prelevando direttamente, immagino, dai conti correnti. Anche questa è una roba che non ti risulta? È una delle voci che girano, ma dobbiamo abituarci in questi giorni, perché obiettivamente poi quando c'è una situazione di alta tensione, di emotività, si rincorrono le ipotesi più disparate. Questa che hai appena descritto è un'ipotesi, diciamo, da stato di guerra, tra virgolette, no? di guerra economica, finanziaria, per fortuna non guerra vera. Perché di fatto equivarrebbe a una sorta di, come dire, di consolidamento di fatto del debito, e questo forse sarebbe meglio evitarlo. Io credo che la strada non possa che essere quella che il governo sta tentando, vale a dire stabilizzare l'avanzo primario e però al tempo stesso cominciare a battere il mostro, cioè il debito, anche attraverso un'operazione di valorizzazione e dismissione di immobili pubblici. Se si riuscisse a fare qualcosa già entro l'anno sarebbe un risultato. Questa è un'ipotesi che però francamente è una di quelle che poi potrebbe portare con sé anche un effetto ulteriore di fuga e di sfiducia da parte degli risparmiatori, quindi probabilmente sarebbe opportuno evitarla. Di nuovo buonasera da Simone Spezia. Ha chiuso in rialzo alla fine la borsa, il FTSE MIB ha guadagnato l'1,17%, il FTSE All Share lo 0,7%, positive hanno chiuso anche le altre piazze finanziarie europee, mentre l'America prosegue positiva sul Dow Jones più 0,36%, in calo lo Standard & Poor's 500 dello 0,25%, il Nasdaq in calo dello 0,45%. Di tutto questo, come sempre, parleremo tra poco, mentre il rendimento dei titoli di Stato italiani a 10 anni, vi abbiamo dato lo spread ma non il rendimento, è al 6,46%. Ci chiedete, a proposito della Germania, come si fa ad investire in negativo? Non è meglio il materasso, ossia comprare titoli di Stato tedeschi che appunto hanno un rendimento negativo? Ce lo ha spiegato bene un gestore nei giorni scorsi. Dato che quelli che si muovono sono gente che muove grandi masse di denaro, diversifica il portafoglio esattamente come dovremmo fare tutti noi con i nostri investimenti, e quindi magari mette qualcosa in asset, ossia in prodotti un po' più rischiosi o considerati un po' più rischiosi, come per esempio un titolo di Stato spagnolo, e tiene dei soldi dall'altra parte nei titoli di Stato tedeschi, che comunque danno una maggiore certezza che saranno ripagati a scadenza. Noi adesso tocchiamo il tema della spending review, e quindi rimaniamo sui temi di politica economica. Penny Review, ossia taglio della spesa. C'è una tensione tra governo e maggioranza sulle province. Ora, letta così, devo essere sincero, fa un po' sorridere, perché l'agenzia recita: Terni, Matera e Isernia sono al centro di un braccio di ferro tra governo e maggioranza sulla spending review. Così è. Scontro è avvenuto nel corso di una riunione della maggioranza col ministro Filippo Patroni Griffi, che ha rifiutato un emendamento dei relatori. Dalle regioni intanto arriva parere negativo, dice Renata Polverini, presidente del Lazio. Sulla sanità sono in arrivo modifiche, non è dato sapere quali, qualche cosa si farà, dice il ministro della sanità Renato Balduzzi ai giornalisti che gli chiedono quali saranno le modifiche, dice chiedete troppo. Nel frattempo in sciopero i farmacisti, domani 26 luglio le saracinesche delle farmacie private saranno chiuse, non aderiranno pur condividendo la protesta le farmacie comunali. E contrarietà alla riduzione del tetto della spesa farmaceutica territoriale, all'aumento dell'incidenza dello sconto a carico delle farmacie convenzionate per i medicinali del Servizio Sanitario Nazionale. Le motivazioni da Gioacchino Nicolosi, vicepresidente Federpharma, che rappresenta le circa 18.000 farmacie private convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale, al microfono di Deborah Rosciani questa mattina a Salvadanaio. Vogliamo continuare a dare al cittadino che ci vuole bene, che in tutte le indagini comunque ci riconosce il nostro lavoro, la nostra dedizione, la possibilità di avere un farmacista dove lo vuoi, quando lo vuoi e come lo vuoi, senza dover pagare nulla. Noi vogliamo continuare a dare questo nostro servizio, vogliamo continuare a essere dove non c'è nessuno, dove non c'è una vetrina aperta, c'è la farmacia. Noi parliamo della realtà attualmente in Italia, delle zone di grandi metropoli, delle zone di periferia, delle zone dove non esiste nessun'altra attività, c'è soltanto la farmacia, c'è soltanto l'insegna della farmacia. Noi vogliamo avere la possibilità di continuare a fare questo. Ci sono delle situazioni drammatiche per quanto riguarda la possibilità di ricevere i soldi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. A Napoli c'è il presidente di Federpharma Napoli, il presidente dell'Ordine di Napoli, che fanno lo sciopero della fame da 5 giorni per far cercare di capire che la farmacia non ce la fa più, perché quando la ASP e lo Stato deve dare 11 mensilità o in alcuni casi 12 mensilità, la farmacia non ce la fa più a resistere. Le farmacie così falliscono. E quindi denuncia in questo caso l'associazione delle farmacie, come sapete siamo stati abbastanza duri con loro quando si parlava di liberalizzazioni, denuncia in questo caso banalmente il problema che hanno tutte le aziende che lavorano con lo Stato, cioè ritardo dei pagamenti, e questo resta sempre uno scandalo chiunque ne sia toccato. Andiamo ai mercati. Eleonora Micheli, Radio Cuore Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dopo 3 giornate di borsa pessime, finalmente vediamo un attimo di luce. Sì, esatto, le borse sono rimbalzate, anche se va detto che oggi, come negli altri giorni, ma soprattutto oggi, la volatilità ha regnato sovrana. Comunque Piazza Affari ha chiuso in progresso dell'1,17% e peraltro ha fatto meglio rispetto alle altre borse europee, Madrid compresa, che è salita dello 0,82%. Questo il quadro generale. Veniamo ai singoli titoli, finalmente, insomma, diciamo, questa volta riusciamo a parlarne, insomma, ecco. Oltre a UbiBanca che guadagna un 7,62%, c'è qualche motivo? No, il motivo è che oggi sono rimbalzate più che altro tutte un po' le azioni bancarie, poi c'è chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio. Ubi si è messa in evidenza sin dalle prime ore della seduta, ha fatto meglio rispetto alle altre banche. Semmai va segnalato che alla fine ha chiuso in progresso BPM, che invece è stata molto volatile, anzi fino a un quarto d'ora prima della chiusura i titoli in verità erano addirittura in terreno negativo, e ricordiamo che quest'oggi è avvenuta la presentazione alla comunità finanziaria del piano industriale, sì, che è stato varato ieri. Dice il consigliere delegato Piero Montani, se il piano di rilancio della BPM non dovesse funzionare, allora siamo rovinati. Questa la frase. Eleonora, Telecom Italia più 2,05%. Più 2,05, in verità questa mattina i titoli guadagnavano oltre il 3%. Si spera infatti che la società risolva i problemi in Brasile. Per spiegare bene bisogna fare un passo indietro. Nei giorni scorsi infatti l'autorità brasiliana ha vietato la possibilità di commercializzare nuovi abbonamenti in Brasile da parte della controllata TIM Brasil, in quanto sostiene non sono stati fatti gli investimenti concordati. Oggi comunque comunque Franco Bernabé, il presidente di Telecom Italia, si è recato in Brasile e incontra i vertici delle autorità e si spera che la situazione sia sbloccata. Il divieto è in 19 stati brasiliani su un totale di 27, quindi impatta negativamente. I titoli questa mattina, come ho detto, segnavano un progresso di oltre il 3%, poi hanno frenato sulla notizia che è arrivata un'altra doccia fredda. La Commissione europea ha aperto un'inchiesta antitrust per verificare se la joint venture fatta tra la compagnia telefonica e la provincia di Trento per costruire un'infrastruttura in fibra sia in linea con le regole degli aiuti di Stato. D'altra parte comunque ha già risposto la provincia di Trento dicendo che si tratta di un atto dovuto dalla Commissione europea e tutto dovrebbe essere tranquillo. I titoli quindi hanno frenato, poi hanno ripreso a correre ma hanno chiuso sotto i massimi. Allora, ti porterei su ST Microelectronics, in realtà di fatto è solamente un rimbalzo, no? Questo più 4%. I titoli erano andati male a seguito dei conti del trimestre che non sono piaciuti al mercato in quanto risultati al di sotto delle attese. Allora, Fondiaria Sai. Fondiaria Sai oggi è andata male, i titoli hanno chiuso in ribasso del 9,75%, ma nel durante della seduta erano arrivati a perdere quasi il 30%, per una serie di fattori, innanzitutto fattori tecnici, visto che oggi è l'ultimo giorno utile per contrattare i diritti legati all'aumento di capitale da oltre 1 miliardo di euro, ma ovviamente non è solo questa la motivazione. Ieri c'è stata la notizia infatti che Palladio, il socio Palladio, è uscito dal capitale, anche se in verità continua a detenere i diritti. E poi è spuntata anche spuntato questo giallo relativamente alla lettera di un presunto accordo. Sì, ne abbiamo Eleonora ampiamente parlato ieri. Brevemente ti chiedo di Seat. Seat invece è stato il miglior titolo della seduta, più 12,69%, si festeggia il raggiunto accordo per la ristrutturazione, soprattutto dopo che nei giorni scorsi si era sudato freddo in quanto sembrava che alcuni soci si fossero messi di traverso e non volessero varare il processo di ristrutturazione. Ieri sera invece è arrivata a borsa chiusa la notizia che il processo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario dell'azienda ha raggiunto la firma con Lighthouse, Pagine Gialle, Fon Service, insomma con importanti soci dell'azienda. E dunque, come si diceva, è anche giusto ospitare opinioni diverse, anche quelle che vi possono sembrare insomma, più stridenti rispetto a quello che sentite in giro, a quello che viene chiamato comunemente il mainstream, e dunque parliamo di uscita dall'euro. Come si diceva, notizie oggi sono quelle dell'ABI che dice che la situazione mette in seria discussione il futuro dell'euro. Si parla di debole governance europea, con segnali contrastanti, scelte rinviate e decisioni non prontamente implementate. Saluto Claudio Borghi che insegna economia degli intermediari finanziari all'Università Cattolica di Milano, se non erro. Professore, buonasera. Buonasera. E editorialista del giornale. Uno di quelli che ritiene che l'uscita dall'euro, l'eventuale uscita dall'euro e il cosiddetto scenario dell'euro breakup, ossia appunto la dissoluzione del sistema della moneta unica, non sia poi questo dramma. Quel che capisco, professore, in realtà lei non è che dice dobbiamo farlo, dice insomma se le cose stanno così allora tanto vale mollar tutto, no? Correttissimo. Io infatti cercherei di ribaltare la questione, cioè più di dire cosa possono essere gli eventuali vantaggi dell'uscita dall'euro, io mi domando in questa situazione perché ci stiamo, cioè vale a dire cosa sono adesso i vantaggi per noi nel rimanere nell'euro. Quando è stato congegnato l'euro, oltre al discorso del mercato unico, ma va bene, cioè ci sono anche paesi che sono nel mercato unico senza avere l'euro, lo scambio era: da una parte io ti do dei tassi bassi, e te in particolar modo Italia, che ha un debito pubblico molto grosso, hai una convenienza a ciò; dall'altra parte io, Germania, neutralizzo in pratica un concorrente che veniva aiutato dalla svalutazione. E bene o male, insomma, tassi da una parte, competitività dall'altra, io non l'avrei fatto come scambio, però è una cosa che si poteva tutto sommato considerare. Adesso la competitività continua a non esserci, perché in ogni caso siamo nello stesso calderone rispetto alla Germania, che pur meriterebbe una moneta molto più forte. Dall'altra parte non ci sono più neanche tassi bassi, anzi si è aggiunto oltretutto il rischio di default, che non abbiamo, che è una novità assoluta per la nostra storia di debito, che è sempre stato quello più o meno. Per cui io dico, cosa rimaniamo a fare? Questo è in sintesi il pensiero. Io, dato che su questo abbiamo visto circolare, su questo tema abbiamo visto circolare parecchi studi, alcuni più attendibili, alcuni meno naturalmente, nei quali però si prospettano degli scenari molto duri, nei quali si parla di un rischio di recessione molto pesante per il paese, cali di PIL nell'ordine di due cifre, aumenti di inflazione altrettanto nell'ordine di due cifre. Io vorrei capire come lei controbatte a questi ragionamenti. Allora, io divido normalmente i contrari all'uscita dall'euro in principalmente sono tre categorie. Il disastrista, che è quello che dice sarà tutto un disastro e spara delle cifre a caso, costerà milioni, pila, così questo tipo, ma senza argomentare perché. Dice che succederà e basta. Poi dopo c'è il filo tedesco, e questa è un'altra categoria abbastanza numerosa, che dice è colpa nostra, siamo stati cattivi, siamo stati poco bravi, dovevamo fare le riforme, invece siamo corrotti, siamo brutti e cose di questo tipo, guarda la Germania come sono bravi, loro fanno bene. E poi dopo l'ultima categoria è il materia primista. Il materia primista è quello che dice noi importiamo le materie prime, la benzina costerà 20.000 dollari, talleri o quello che vogliamo fare, e sarà tutto un disastro. Allora, per tutte queste tre categorie ci sono delle risposte piuttosto precise. Lascio perdere il catastrofista, quello dice che ci saranno le cavallette, che ci saranno quelle cose lì, va bene, una sua legittima opinione. Però per gli altri due, vale a dire per il filo tedesco, che dice che in ogni caso erano tutti merito della Germania, dico che in ogni caso noi non avremmo potuto vincere contro la Germania, anche se ci fossimo allenati, perché questo gioco dell'euro è un gioco che in pratica si è rivelato a somma zero. Non è che l'Europa ha esportato di più, l'Europa ha cominciato a dividersi in parti dell'Europa che esportavano all'interno dell'Europa e parti che importavano. Ma ci saranno pure dei vantaggi da un mercato unico, professore, no? Ma certo che i vantaggi ci sono da un mercato unico, senza dubbio, però c'è un WTO da questa parte, cioè non è che gli altri sono fuori da questo mondo bellissimo. In realtà però all'interno di questo mercato si sono originati dei vincitori e dei vinti. Se noi fossimo stati bravissimi, se noi fossimo stati meglio della Germania, certo, è una situazione brillante, ma non avremmo potuto essere tutti bravi, perché altrimenti il successo della Germania derivante dalle esportazioni, soprattutto all'interno del mercato europeo, avrebbe avuto bisogno di un universo parallelo dove esportare. Vale a dire, la Germania in poche parole si è arricchita sull'import verso la Spagna, stringendo il concetto. Se tutti erano Germanie, ci sarebbe voluto un'Europa di tutte Spagne che consumava, invece questo non è possibile. Quindi questa è la prima obiezione. Senta, mi scusi, io torno a bomba sul tema, insomma, sì. Il rapporto tra il rischio che una potente svalutazione porti ad un'altrettanto potente inflazione, che sappiamo gli effetti che ha. Lei, mi sembra di capire, dice che questo non è vero, non si verificherà. No, non si verificherà, e abbiamo anche le prove che non si verificherà, perché quando nel 92 noi uscimmo dallo SME, che era la versione dell'epoca dell'euro, perché i cambi erano fissi, noi avevamo, è vero sì, la nostra lira, ma i cambi erano stati fissati dentro range molto stretti contro le altre valute europee. All'epoca questa versione dell'euro, anche all'epoca, doveva essere mantenuta ad ogni costo, pena le cavallette, la sciagura di cui adesso stiamo rivedendo. All'epoca vennero imposte delle tasse assurde, si ricorda sicuramente il prelievo notturno sui conti correnti organizzato da Amato pur di mantenere queste parità, ovviamente inutile, così come inutili sono le manovre che stiamo facendo. Nel momento stesso in cui svalutammo di oltre il 20% rispetto alle altre monete. Sa quanto fu l'inflazione aggiuntiva da questa svalutazione della nostra moneta del 20% rispetto alle altre monete europee? Zero. Le 18:06 minuti e 45 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Naturalmente diamo conto, non è che non ne diamo conto, che ne erano arrivati veramente pochini, anche degli sms che sono arrivati a favore della tesi che ci ha esposto poco fa il professor Borghi, che insomma diceva... tutto sommato questa uscita dall'euro non sarebbe un dramma, ci scrive Roberto per esempio, finalmente uno che parla chiaro e comprensibile, sono d'accordo, chi ci dice sono d'accordo col dottor Borghi, via dall'euro, e ancora ditemi solo un ragionevole motivo per il quale dovremmo starci, la Gran Bretagna è dentro, non mi pare che viva ugualmente, così come ci sono tantissimi messaggi anche molto duri nei confronti del professor. C'è chi ci dice, e leggo uno di quelli morbidi, attacca i catastrofisti all'insegna dell'ottimismo berlusconiano che ci ha portato a reagire alla crisi con 2-3 anni di ritardo e relative conseguenze. Questo quello che emerge insomma dai vostri sms è... Lo ripetiamo, un elemento di dibattito che abbiamo voluto lanciare sul piatto, perché naturalmente è utile anche questo. Noi adesso rimaniamo però sui temi europei e ci occupiamo dei maledetti tedeschi. Perché oggi, in una giornata nella quale i mercati ci hanno dato un po' di respiro, possiamo ragionare un po' più ampiamente, appunto, e probabilmente anche un po' al di fuori dei pregiudizi sulla Germania e su Berlino, e anche sullo stato economico della Germania stessa, perché ci sono delle preoccupazioni anche da questo lato. Moody's, come sapete, nei giorni scorsi ha tagliato l'outlook, ossia quella che è la prospettiva di rating della Germania. Oggi ha tra l'altro declassato, ha tagliato l'outlook anche di 6 Länder, ossia regioni tedesche. Conseguenza questa del taglio per quanto riguarda il paese. Dati che arrivano dall'IFO, l'indice IFO che misura la fiducia delle imprese tedesche nella congiuntura economica. L'indice segna per il mese di luglio 103,3 punti, terzo calo di seguito. Il mese precedente aveva registrato 105,2 punti. Il portavoce del ministro dell'economia Rösler dice il rischio aumenta ma l'economia è robusta.

surplus e in grande deficit. E quindi quello che possiamo dire è che c'è una ricomposizione dei flussi di commercio mondiale. Allora, dobbiamo chiederci, sì, prego, professore. No, dobbiamo chiederci se questo tipo di meccanismo può essere un segnale del fatto che in una certa misura la nostra struttura produttiva inizia ad adattarsi da un canto all'idea che la domanda sta fuori e all'estero, sì, e quindi le imprese si cercano, c'è un effetto proprio, quanto maggiore è la mia crisi tanto più cerco di esportare, questo sì, è noto nella congiuntura, in parte questo ci è aiutato dal fatto che l'euro si è indebolito, ricordiamoci sì, che nei prossimi 6 mesi vedremo gli effetti dell'1,20 di sì, cambio dollaro-euro, mentre adesso stiamo ancora vedendo gli effetti dell'1,45 di un anno sì, fa, la relazione non è immediata. E d'altro canto, quando noi abbassiamo i nostri livelli di domanda, perché c'è una caduta del nostro reddito permanente per effetto della correzione di bilancio, in qualche modo stiamo adeguando il nostro reddito a quella che è la nostra capacità di spesa potenziale. Quindi vorrei solo dire che i rapporti bilaterali forse sono un meccanismo di aggiustamento anche all'interno dell'area dell'euro. E dunque, continuiamo a parlare di Germania e dell'impatto politico che dell'impatto sui tedeschi che potrebbero avere notizie di un rallentamento economico derivante anche da quello che succede nei paesi della cosiddetta periferia, tra cui noi, ci scrive tra l'altro un ascoltatore: gentile conduttore, i tedeschi hanno sempre vinto le battaglie ma perso le guerre, lo capiranno anche loro. Lo chiediamo proprio al professor Alberto Crali, lo ricordiamo ancora una volta come abbiamo fatto all'inizio, un germanista, autore di Primi della classe col K, la crisi europea e il ruolo della Germania, lo capiranno, professor? Dunque, allora, se gli effetti sono questi, bisogna dire che la prima reazione che c'è stata sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung è stata questa, cioè a dire stiamo andando male perché ci impegniamo troppo in Europa. Quindi questo qui praticamente avremmo un paradosso, perché ciò che veniva auspicato nella ricetta economica tedesca, cioè a dire che i paesi in difficoltà dovevano appunto stringere la cinghia in questo modo qua, rendersi competitivi, lentamente sembra si stia realizzando, e nel preciso momento in cui sta realizzando la società tedesca reagisce e dice no, allora ci siamo impegnati troppo. Una sorta di autoassoluzione. Esattamente, bravo. Quindi praticamente noi avremo una situazione di questo genere qua, che il vero problema adesso è come reagisce la Germania dal punto di vista politico. Perché i segnali effettivamente sono un po' discordanti, perché abbiamo, l'ha già citato anche lei, il vice cancelliere Rösler, che è un liberale, che ha già fatto, ha espresso dubbi chiari sul fatto che la Grecia debba essere ancora aiutata, abbiamo la CSU, che è il partito bavarese, che appunto è fortemente critica sull'impegno europeo della signora Merkel. Poi abbiamo una lista di 200 economisti guidati da Sen, che appunto che dicono che fondamentalmente l'impegno tedesco in Europa è sbagliato, perché aiutare i paesi che sono in difficoltà porta di fatto a cacciare sempre più denari in un fondo senza, in una botte senza fondo. Ecco, questo, tutto questo naturalmente condiziona la politica della signora Merkel, la quale signora Merkel non bisogna demonizzarla, è una signora che è convinta del fatto che il suo paese con l'euro e in Europa sicuramente trova una via di benessere. Ed è quindi mi scusi professore, a maggior ragione adesso, quando un'impresa tedesca si finanzia praticamente alla metà di un'impresa italiana concorrente, insomma, quindi sì, per forza che è un beneficio. Esatto, però siccome si cominciano a vedere gli aspetti negativi, capisci che anche questo beneficio qua va in seconda linea, e in prima linea va il fatto che, oddio, stiamo andando in recessione, capisce? E già i televisionali tedeschi ieri la segnalavano questa cosa qua, quindi bisogna stare attenti poi anche ai giochi e ai riflessi sull'opinione pubblica di certi messaggi, perché i messaggi positivi vanno a finire poi dopo in cantina e emergono sempre quelli negativi, che è un po' quella tendenza dell'opinione pubblica tedesca in generale, che ha bisogno, ha sempre un problema di sicurezza, è insicura per sua natura, e quindi fin quando la cosa non è matematicamente certa è sempre nel dubbio. E siccome i paesi spendaccioni rimangono ancora spendaccioni e non c'è ancora modo di tenerli sotto controllo in modo garantito e vincolante, è chiaro che nell'incertezza si balla. Ed è questo il vero problema, perché che la Germania deve avere una funzione di guida, ormai su questo sono tutti unanimi, e devo dire anche questo, che guardi che nell'ultimo secolo la Germania ha fatto due guerre mondiali per avere l'egemonia, pagando milioni di morti e creandone anche negli altri paesi, e adesso che gli viene offerta su un piatto d'argento ha paura ad assumersene le responsabilità. Questo è il grande problema, ed è un problema che non è di tipo economico, ma è un problema di tipo storico-culturale. Storico-culturale e sociologico, ci sembra di capire. Esatto, perché la questione tedesca la dobbiamo affrontare con questo. Se ci atteniamo ai soli economisti, dobbiamo fare riferimento a quello che diceva una volta Alfred Marshall, che un economista che è solo economista è un cattivo economista. Perché il punto fondamentale è che muovono le società, muovono gli stati, sono le dimensioni storico-culturali. La dimensione storico-culturale tedesca è fondamentalmente diversa da quella americana nel suo approccio. Ha un approccio di tipo morale, con categorie di tipo morale filosofico e non pragmatiche. Ed è questo lo scoglio che deve affrontare la signora Merkel. Molto, molto interessante questa analisi, professore. Io ritornerei adesso a Fedele De Novellis di REF e ritornerei sul tema della Germania, su un altro elemento. Le chiedo però di essere abbastanza breve, De Novellis, che è l'elemento che abbiamo affrontato nei giorni scorsi, ossia, torniamo sugli elementi più concretamente economici, quello dell'inflazione. Ne abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi perché l'idea è che il progressivo calo dell'inflazione in Germania possa sbloccare le resistenze della Bundesbank a far sì che finalmente la Banca Centrale Europea intervenga in aiuto di tutti i paesi dell'Eurozona, in particolare naturalmente dei paesi in difficoltà, brutalmente stampando moneta, quindi una prospettiva di deflazione. Dal vostro punto di osservazione economica, le prospettive di inflazione in Germania come le vedete? In generale le prospettive sono per un'inflazione modesta, però non è un quadro di deflazione. Però dobbiamo ricordare che nel corso degli ultimi anni, quando abbiamo visto una revisione al ribasso delle aspettative di inflazione, per esempio questo è accaduto nel caso della Federal Reserve, che ha lanciato i quantitative easing quando c'era una inversione delle aspettative di inflazione, in qualche modo le banche centrali si allarmano e sono anche legittimate dalle adottare misure di politica monetaria non convenzionale. Io dico che, diciamo, tre parole d'ordine: salari, disoccupazione e prezzo del petrolio sono quelli che faranno da guida alle tendenze dei prossimi mesi. E dato il quadro congiunturale, mi aspetto. Quindi elementi classici guideranno, e quindi data la dimensione di deflazione da domanda, mi aspetto che ci sia un abbassamento. Dopodiché le materie prime, in questo momento sembrava cadere molto il prezzo del petrolio, poi la questione, le vicende siriane hanno in qualche modo mantenuto alto il premio al rischio incorporato nelle quotazioni, però ecco, l'inflazione, e poi c'è anche la componente fiscale in alcuni paesi periferici, per cui l'inflazione europea forse è stata sì troppo alta rispetto a quella che è il processo di formazione dell'inflazione interno al sistema, per cui nei prossimi mesi ci si può attendere una discesa verso i valori più che rispondenti a quella che è la situazione attuale, che oggettivamente è una situazione di forte moderazione dei prezzi, e quindi quando siamo sotto il 2% si apre ovviamente qualcosa di diverso, perché la BCE sta nel mandato, se in qualche modo si pone il problema di non far scendere ulteriormente nell'inflazione corrente e nell'inflazione attesa. Un'ultima domanda, abbiamo un paio di minuti col professor Krali per chiederle un po' se la visione dei tedeschi nei confronti dell'Italia è cambiata con Monti, no? Si era detto di lui, aveva detto di se stesso di essere un po' il più tedesco degli italiani, un po' lo stesso che avevamo detto che si era detto di Draghi, se vogliamo. La percezione come paese inaffidabile secondo lei è calata, ma non basta, suppongo. Il problema di Monti molto chiaro, nel senso che Monti dà la sua garanzia personale per un paese che non è in grado di darne. Questo è il punto fondamentale. Quindi il timore fondamentale dei tedeschi, e non solo dei tedeschi, è quello che succederà dopo Monti, o addirittura nel periodo di Monti, quando le forze politiche non siano in grado di sopportare in termini ragionevoli e politicamente accettabili le ricette montiane. Questo è il punto fondamentale, perché noi dobbiamo tenere presente questo fatto qua, che lo Stato tedesco fondamentalmente è costituzionalmente uno Stato sociale, che ha al suo interno il concetto della solidarietà sociale, che se vuole ha una dimensione anche emblematica e simbolica, che è la Mitbestimmung, cioè la cogestione. Ora, il concetto dell'economia sociale di mercato, che è fondamentale nel sistema tedesco e che deriva dal cosiddetto socialismo prussiano, ai suoi antecedenti lì, ecco, in Italia e in Sud Europa in generale è stato declinato come economia sociale di mercato assistenziale. E quindi ha preso la versione dell'assistenzialismo. Chiarissimo. Questa deriva ha fatto sì che l'Italia abbia accumulato negli anni appunto un debito di 2.000 miliardi. Ed è questo che temono i tedeschi. Chiaramente. Ed è questa la ritrosia che li porta ad essere estremamente cauti nel concedere garanzie e fiducia, a paesi come l'Italia. La ringrazio molto, professore, grazie per essere stato con noi, al professor Alberto Crali, germanista, lo ricordiamo, autore del libro Primi della classe, la crisi europea e il ruolo della Germania. Ringrazio anche Fedele De Novellis di REF. Non abbiamo avuto tempo oggi, vi faremo sentire domani l'intervista che ha realizzato il collega di Radio Core Il Sole 24 ore, Antonio Pollio Salimbeni, con il commissario europeo all'antitrust Almunia, in particolare sul tema di Tirrenia, vicenda che per un po' abbiamo abbandonato e sulla quale torneremo. Grazie a Pietro Lacorte in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a domani. Radio 24, la passione si sente.